9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no sense. No, che non lo cambio, The End of the Doors, non lo cambio perché non basta essere entrati il primo giorno in un ospedale per avere la cura che già funziona, come mi è stato osservato stamattina presto. E poi ho visto anche il titolo del Wall Street Journal dedicato alle dichiarazioni programmatiche del governo Monti: debito dell'Italia, una sbornia post-euro. E qui la tesi è che noi non reggiamo i bassi tassi di interesse perché la politica italiana evidentemente in 10 anni ha preso i 7 punti che risparmiavamo sul debito pubblico, invece di abbassare le tasse e apparettare la spesa pubblica se li è papati, ed ecco dove siamo. Quindi, siccome non basta un giorno di ricovero in ospedale, per così dire, per dichiararsi sani, e soprattutto perché nel frattempo la crisi dell'euro galoppa e anche stamane in premercati lo spread francese sfondava il record di ieri oltre quota 200, e i mercati ci dicono che a questi ritmi verticosi di vendite colossali da parte d'oltreoceano degli Stati Uniti verso non solo i titoli pubblici europei, tutti tranne i bond oramai, tutti gli spread galoppano, ma verso gli asset bancari che deprimono verso il basso tutte le borse, a questi ritmi ci dicono i mercati che in assenza di un accordo europeo che modifichi gli attuali meccanismi hanno le tre caratteristiche di non aver unificato i mercati sottostanti rispetto alla valuta, riconoscere i debiti pubblici in valuta straniera rispetto alla BCE e all'euro, terzo, e di impedire alla BCE di monetizzare il debito pubblico, con queste tre caratteristiche i mercati dicono: se rimanete così, voi in 4 mesi buttiamo per aria, perché il sistema bancario francese sarà il primo a saltare per importanza. E quindi ci teniamo i Doors. Notizie flash, prima di arrivare a chiedere opinioni a voi e ai nostri ospiti su Monti ieri. Intanto, in preapertura del mercato, per la prima volta da mesi, sia pure solo di 3 punti, lo spread dell'Italia torna più basso di quello spagnolo. Noi siamo a 500, quello spagnolo a 504, vediamo se la cosa è confermata o è un'oscillazione di 3-4 punti che non fa la differenza, però ragazzi è la prima volta da che la Spagna ha annunciato le elezioni anticipate. È la svolta? No, non è la svolta, perché quota 500 è comunque uno spread irreggibile. Quello che però ci tengo a dirvi è che rispetto a dove si è spostata in avanti la curva dei rendimenti in tutta Europa per tutti i titoli del debito pubblico, perché il mercato ormai scommette sul fatto che è l'euro che salta se non c'è una modifica sostanziale delle sue tre caratteristiche, impossibile che voi pensiate, anche se siete nostalgici legittimamente del governo precedente, oppure se siate convinti che sia stato buttato a mare da una torbida congiura di banchieri, dal mercato oscena e oscura forza che spodesta la sovranità popolare, anche se pensate questo, non dovete immaginare però che sia possibile tornare a quota 200-300 di spread per l'Italia, perché quello era quando tutto stava buono e quando la Francia era a 60 punti di spread, non adesso che oltre 200. Quindi se ben ci va, se viene considerata l'operatività delle misure annunciate ieri capaci di essere tradotte efficacemente in fatti molto rapidamente, e se quindi veniamo considerati allontanarci da quella soglia di essere la bomba atomica pronta a esplodere che tutti vedevano che ha portato alla fine del governo di Silvio Berlusconi, bene ci va, scendiamo verso quota 400, ma non è che possiamo scendere oltre. Detto questo, brevissima analisi dalla stampa internazionale dei fatti che riguardano la crisi dell'euroarea. Innanzitutto il Daily Telegraph oggi parla di un piano di 6 pagine dei tedeschi, perché ieri la Merkel ha annunciato che al prossimo Consiglio europeo bisogna assumere assolutamente decisioni di limitate modifiche, questo è stato il termine che ha usato, limitate modifiche ai trattati europei. Daily Telegraph è l'unico dei grandi giornali europei che ho visto che accenna a un documento elaborato dal Ministero degli Esteri tedesco in 6 pagine con una specie di processo a tappe per l'unione politica. Non entra nei particolari. Il Financial Times aggiunge però che David Cameron, il premier britannico, sarebbe pronto al sostegno di questo piano, a due condizioni però: che la Tobin Tax, che vogliono i tedeschi e i francesi, non si applichi al Regno Unito, che la maggior piazza finanziaria non la vuole, secondo me ha ragione il Regno Unito, e in cambio, se questo i tedeschi lo accettano, allora il Regno Unito non fa un altro referendum sull'euro-area, se no ci danno un'altra botta interna da questo punto di vista. Capisco i britannici, devo dirvi la verità, la Tobin Tax unilaterale è una cosa che non funziona se non è estesa a tutto il mondo, l'abbiamo ripetuto mille volte. I giornali francesi, a cominciare da Le Monde, dedicano molto spazio alle pressioni che la Francia sta rivolgendo alla Germania per capire che queste decisioni da assumere al prossimo Consiglio europeo sull'unione politica e sul cambio anche della parte che riguarda statuto e trattato della BCE devono essere rilevanti, perché altrimenti non è che salta la Francia, salta l'euro. Hanno iniziato ad adottare anche loro il ragionamento italiano, mentre fino a poche settimane fa facevano dei risolini nelle conferenze stampa, ricordatelo. BCE, Mario Draghi, sotto Mario Draghi il board della BCE ha adottato un tetto agli interventi massimi per settimana, perché ha speso centinaia di miliardi la BCE da che ha iniziato ad agosto a sostenere i titoli del debito pubblico. Il massimale settimanale, dice il Frankfurter Allgemeine, sarebbe stato fissato intorno ai 20 miliardi, non più di 20 miliardi settimana. È un limite abbastanza alto rispetto al limite dichiarato di acquisti delle ultime settimane, se pensate che la scorsa settimana ufficialmente la BCE ha dichiarato di aver impiegato solo 4,5 miliardi di acquisti, molto meno di quello che poi pensavano i mercati che invece fosse avvenuto, a dire la verità. In Grecia Papademos presenta il suo budget finale per il 2012 e c'è la troica che sbarca oggi, ma il capo dell'opposizione, come vi ho detto già ieri, Anthony Samaras, conferma che lui impegni per ulteriore strette non ne prende, perché la Grecia, dice, è arrivata al limite massimo, non conviene più ulteriormente stringere la cinghia. L'Irlanda insorge oggi. Perché insorge? Perché i tedeschi, che vogliono che in alzi la tassa sulle imprese, quella grazie alla quale l'Irlanda non solo è cresciuta tantissimo prima, ma continua a crescere oggi tre volte più di noi, anche se noi si è esploso il debito per via delle banche. I tedeschi che non sopportano il fatto che l'aliquota irlandese sia competitiva con la loro, hanno ragione gli irlandesi, a mio giudizio, tanto per cambiare, fossi irlandese direi: tedeschi, giù le mani dalla nostra bassa aliquota, abbassatela anche voi se siete capaci, ed è molto più bassa di quella italiana, figuriamoci noi quanto dovremmo abbassarla. Ma insomma, i tedeschi non ne hanno fatta un'altra delle loro, perché hanno rivelato al Bundestag, cioè al Parlamento tedesco, un documento nel quale si identificano le misure di austerità che il governo irlandese sarà, tra virgolette, costretto ad adottare. Si tratta di 3,8 miliardi di euro nel budget che viene presentato in Irlanda, però non prima del prossimo mese, sono 3,8 miliardi nel 2012 e poi 3,5 miliardi di euro nel 2013. E lo scherzetto è quello che nel documento si dice, documento reso noto al Bundestag, ripeto, senza che non al Parlamento irlandese, si dice che naturalmente bisogna aumentare l'IVA di 2 punti al 23%, e bisogna poi aumentare anche le imposte sulla casa. E questo documento verrebbe dalla Troica ed è stato illustrato dalla Troica, cioè dagli osservatori mandati in cambio del sostegno europeo all'Irlanda, ai 41 membri della Commissione Finanziaria del Bundestag. Quindi scopriamo un altro meccanismo di come funziona questo commissariamento. La Troica europea scrive documenti, li gira alla Commissione Finanze del Bundestag tedesco, se vengono approvati o meno dalla Commissione Finanze del Bundestag tedesco, dopodiché allo Stato arriva l'ordine di eseguirli. È un meccanismo un po' tosto, oggi i giornali irlandesi sono al calor bianco. Ultima osservazione sul Bild, grandissimo giornale popolare tedesco, cioè tenete conto che arriva a fare, quando tira molto e vende molto, se si calcolate i lettori, non solo le copie vendute, arriva a fare 10 milioni di tedeschi che lo leggono ogni giorno. C'è un singolare articolo invece del vice direttore Nikolaus Blom, che serve, ve lo segnalo perché spiega come arrivi invece tutto questo poi alla pancia, all'opinione pubblica più popolare tedesca, perché Blom scrive un articolo che dice: ma questa storia degli spread impazziti di tutta Europa che rivelerebbe che l'euro salta è una stupidaggine, non è affatto così. Dice: questa cosa può far venire solo l'isteria ai politici che hanno sbagliato, per il resto, dice, no, è una cosa che si può reggere benissimo. L'unica cosa è che deve essere chiara ai nostri lettori, scrive il vice direttore di Bild, Blom, è che la BCE dovrebbe piantarla di sostenere e acquistare i titoli dei paesi che non sono capaci di reggersi sulle proprie gambe. E dopodiché aggiunge: i paesi e i governi devono capire che troppo debito non funziona e devono essere messi in condizione di pagare di fronte ai loro elettori, se non l'hanno capito prima. Un numero di governi sono stato costretti a capirlo, tra cui quello dell'Italia anche recentemente. Prima i politici capiscono come ci si comporta bene nei confronti dei loro elettori, meglio è per tutti, senza che si mettano a piangere chiedendo aiuti. Questo è Bild su, sulla crisi e anche sull'Italia. Ora, io chiedo immediatamente, senza fare giri di parole, ai nostri ospiti invece cosa pensano dei tre pilastri illustrati ieri dal presidente Monti, innanzitutto anche del tono del suo intervento, del rispetto verso la politica, del fatto che non mi sia sembrato velleitario, del fatto che abbia respinto l'accusa di essere un oscuro servitore dei poteri internazionali. Ma insomma, qui stiamo parlando innanzitutto di ICI prima casa, graduato per redditi, pensioni col contributivo prorata, su questi due pilastri c'è poi un intervento sul mercato del lavoro che, diciamo, senza dire precisamente che proprio la proposta è Chino e non quella passione del PD, però fa capire che quella sarebbe la direzione, malgrado il veto sopportato sulla presenza di Chino nel governo. Su tutte queste cose i nostri ospiti chi sono? Sono Mario Sechi, il direttore del Tempo. Buongiorno direttore. Buongiorno Oscar, buongiorno a tutti. Alessandro Barbera, collega e giornalista della Stampa. Buongiorno Alessandro. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora Sechi, cosa pensi delle medicine della cura Monti? Cosa pensi di un tono che a me francamente non è dispiaciuto per niente? Dunque no, concordo con te sul non dispiaciuto, nel senso che hai fatto un discorso asciutto, di stile quasi anglosassone, no? Preciso sui punti, gli elencati. E in fondo la cura è quella, non è che ce n'è altra. Voglio dire, in un paese che ha l'82%, forse 85% addirittura, di proprietà immobiliare, tu cosa vuoi tassare? Perché poi alla fine, no? Uno deve controllare i cespiti da tassare, e sono quelli, non c'è niente da fare. Naturalmente l'obiezione è: ma è stata levata, ho capito, ma è stata levata primo in un'altra era, perché da dopo la crisi del 2008 il mondo è decisamente cambiato. Secondo, non è detto che nella logica del bilancio pubblico sia stata una scelta saggia, può aver fatto piacere a tutti noi, che non l'abbiamo pagata per esempio, ma poi c'è un tema di sostenibilità. L'altra cosa è la progressività, mi pare che sia una soluzione che sia adottata in Francia, questo, non potrei anche sbagliarmi. In ogni caso il tema della progressività dell'ICI è interessante, perché hai una casa e un tot piccolo, ne hai due un altro tot, ne hai tre un altro tot, ne hai 4, 5, 6 paghi, e in effetti la ricchezza immobiliare riflette la capacità di reddito, perché non è possibile che sia il contrario, perché altrimenti verrebbe da dire che tu le case te le sei comprate da Marco, con i soldi che provengono da Marte, e là qualcosa non mi pare ancora possibile nella storia dell'umanità. Dunque quello è un criterio da adottare. Sulle pensioni è inutile girarci intorno, noi abbiamo il tema dell'anzianità, che siamo gli unici in Europa ad averla, quindi, e non vedo perché dovremmo essere considerati migliori. E quindi c'è da fare un intervento. A me è piaciuta molto l'idea ovviamente della spending review, ma anche il principio per cui bisogna cominciare a spostare la tassazione dal lavoro ai consumi e ai patrimoni, cioè è sacrosanto, è un altro principio sul quale bisogna lavorare. L'esempio è molto semplice: chi ha più propensione al consumo ha più soldi, anche qui è evidente che una famiglia monoreddito che ha 1200 euro con quella deve vivere consuma poco, purtroppo. Ed è evidente che una famiglia che invece ne ha 4000 perché ha due stipendi così consuma di più. Ed è altrettanto evidente che un evasore totale consuma più di tutti questi messi insieme, perché dobbiamo dirci la verità. E non è che con l'ipocrisia del non tassare i consumi, perché se non deprimiamo l'economia continuiamo a tenere safe, cioè alla larga dalle tasse, chi le evade? Ed è una marea di gente, non siamo ciechi su questo. Ed è altrettanto vero che sui patrimoni, sui cosiddetti rentier, c'è da fare un ripensamento. Che cos'è questa? Una politica di sinistra? Non mi pare proprio. A me sembrano dei provvedimenti liberali. E quindi vanno fatti. Cioè, se andiamo a vederci la discesa in campo di Berlusconi nel 94, c'era di questa roba, eh. Quindi c'è poco da fare gli schizzinosi nel centrodestra. E ancor meno c'è da fare gli schizzinosi nel centro-sinistra, che quando sono all'opposizione predicano questo e poi non lo vogliono fare. È ora di muoversi. Io sono, diciamo, sposo integralmente l'appello, i contenuti, il tono di questa cosa. Soprattutto continuo a rivolgermi a una parte di ascoltatori, quelli moderati, sostenitori ancora adesso del centrodestra, che continuano a bombardarmi ogni giorno, di un pacato invito alla riflessione. Più descriverete questi intenti e indurrete magari i parlamentari che vi esprimono ancora oggi a contrastarli leoninamente e muscolarmente, più secondo me otterrete l'effetto opposto di quello che vi proponete. Cioè, se l'effetto che vi proponete o ambite al fatto che il centrodestra, così come oggi PDL e Lega, nella distinzione dei ruoli, la Lega all'opposizione, il PDL raccolto intorno alla bandiera ancora di Silvio Berlusconi, abbiano un ruolo futuro, più leoninamente vi opponete, più secondo me lo regalate a una prospettiva di obbligatorietà di questo governo. Sappiamo tutti perché, ci può piacere o meno, ma è così, perché il governo precedente non è stato all'altezza, poteva farlo, non l'ha fatto, e in questo caso secondo me aprite spazio esattamente a ciò che dichiarate di non volere a tutti i costi, cioè l'opposizione che poi vince. Questa è la mia pacata, per così dire, riflessione. A me è piaciuto che non ci sia stato un accenno alla patrimoniale one-off per il debito pubblico, una sberla di proporzioni talmente depressive che era impensabile, però magari Monti poteva fare qualche accenno in proposito. Non c'è stato alcun accenno a una tassazione patrimoniale dovuta per riequilibrare l'eccessiva dispersione di ricchezze italiane, cosa che in tutti i dati comparati è assolutamente contrastata dai fatti, ma che è diventato un tema dominante della vita italiana. Io sono contrario a che i governi stabiliscano a tavolino loro qual è il coefficiente di Gini ottimale di una società, e ci mancherebbe altro. Credo invece che la cosa dell'ICI prima casa per reddito sia non solo un riferimento all'imposta immobiliare, che è il fondo e il fondamento e il pilastro di tutta l'imposizione immobiliare locale, ma sia stata una maniera di adempiere alle proprie promesse un po' sbagliate. Io sono uno che contesta al centrodestra a Berlusconi di non avere adempiuto le proprie promesse, e l'ha fatto proprio lì dove invece si apriva un buco e si apriva un problema nella transizione poi all'IMU, all'imposta del federalismo che dovrebbe scattare nel 2014. Mi piace molto il contributivo pro rata, a dirvi la verità. Se si adottasse esattamente come lo descrive da sempre il Safornero, noi avremo dal primo gennaio 2012 l'età minima in realtà a 63 anni, con una forbice libera per tutti da 63 a 70 anni, ma limitando molto il danno che l'adozione della Dini troppo spalmata nel tempo ha fatto sia a chi ne è esente, cioè aveva 18 anni di contributi nel 96, sia a chi era a cavallo e negli anni precedenti al 96, quindi sta ancora retributivo. Si diminuirebbe per loro il premio rispetto invece alla botta che si beccano tutti coloro che sono stati assunti dopo il 1996. Seconda caratteristica, si estenderebbe il contributivo anche a coloro che invece si sono presi il privilegio di restarne fuori, non dimentichiamocelo, A, i politici, e B, mi spiace, i professionisti, quindi parlo pure per me in questo caso, eppure dichiaro che secondo me è giusto che si applichi a me pienamente il contributivo, a tutti i professionisti, non a me individualmente, ma a tutti i professionisti il contributivo, così come non è nell'attuale assetto. E secondo me questo, oltretutto, con le soglie aperte alla scelta libera di ciascuno e con incentivi però di contributivo a rimanere di più al lavoro, è una soluzione che ha la giustizia intergenerazionale al centro. Sentiamo invece Alessandro Barbera, che ha pensato del tono, dei maggiori contenuti e che cosa pensa dell'evoluzione politica rispetto a questi temi. Ma una cosa che a me ha colpito del discorso di Draghi, l'ho scritto di Monti, che ha ben raccontato stamattina Luca Ricolfi sul mio giornale, Monti ha messo in fila tutte le cose che tutti sappiamo che andavano fatte da anni. Questa è una cosa, lui stesso lo ha ammesso. E questo è ciò che fa dire a molti del centrodestra: dovevamo far venire questo per dirci, farci la lezione da maestrino. Poi Ferrara scrive: il preside ha deluso. Chissà cosa doveva dire. Ma bene, invece quello che è importante dire è che è rivoluzionario il fatto che l'abbia fatto. L'abbia fatto dai banchi del governo, perché nessun presidente del Consiglio aveva mai fatto quello che lui ha fatto ieri, cioè mettere in fila tutti i problemi. Qualcuno diceva sembrava il governatore della Banca d'Italia. La mia obiezione, me lo ha fatto un collega, è sì, ma questa persona ieri parlava dei banchi del governo, questa è la novità sostanziale. Quindi ci ha detto le cose che andavano fatte, ha depurato tutte queste cose dal bipolarismo muscolare, come hanno definito alcuni, di questi anni. Ha ragione Secchi a dire, ma insomma, che misure erano? Erano le misure di destra o di sinistra? Erano le misure che andavano prese. Ha detto le cose che vanno fatte. E la cosa che a me personalmente è piaciuta è che già nel discorso di insediamento lui ha depurato tutte queste misure di tutti, come dire, gli spigoli che sarebbero potuti esserci laddove lui avesse deciso di prendere, come dire, di punta i problemi. Ha ammorbidito l'ipotesi che ci porterà sostanzialmente al contratto unico, cioè all'introduzione dei licenziamenti per motivi economici, dicendo che a chi ha già un lavoro non perderà la tutela che ha, e ha ammorbidito, Oscar, questo immagino tu l'abbia capito benissimo, la questione della patrimoniale, cioè la patrimoniale lui l'avrebbe voluta fare, non so in che termini, ma l'avrebbe voluta fare, non la fa perché ha capito che nel PDL c'è una fortissima contrarietà e sta scegliendo una strada laterale, che è quella di un'ICI molto forte su chi ha molto, su chi è più ricco, su chi ha più case e sugli immobili più di pregio. È il discorso di un premier che finalmente ha tolto di mezzo le assurdità della politica di questi anni, perché persino nel centrodestra ci si divideva su piccole questioni come se fossero questioni capitali. Io credo che quella di ieri è stata veramente una prova di buon senso che ci farà bene. La cosa che un po' mi preoccupa, lo comincio a vedere soprattutto nel centrodestra, in questi giorni, sono quando cominciano i distinguo, cioè se per caso di qui a Natale la pressione sui mercati dovesse scendere e si dovesse avere la sensazione che siamo usciti dalla fase dell'emergenza, ecco, io temo che qualcuno nel centrodestra potrebbe essere, ad esempio, di fronte ad una manovra molto forte sull'ICI, potrebbe essere tentato di dire no, non ci va bene così, andiamo alle elezioni. Ecco, questa è una paura che ieri ho intravisto. Sì, sono molto d'accordo anche su questo. E dalla quale bisogna guardarsi bene, perché invece, come tu hai ben spiegato, i problemi non sono, potrebbero non essere, i veri problemi potrebbero non essere oggi, potrebbero arrivare, quello che è successo nell'ultimo mese è probabilmente l'antipasto di quel che succederà nel 2012, quando i problemi dell'Eurozona verranno al pettine, se nel frattempo, c'è da sperarlo, l'Eurozona non cambierà passo. E poi c'è il problema delle maggioranze in Parlamento, perché ieri la maggioranza che ha approvato i provvedimenti, ha approvato il programma di Monti, era molto ampia, lo sarà probabilmente anche alla Camera. Diciamo, sulle linee programmatiche Monti è stato sufficientemente lasco e in qualche modo generico da potersi permettere una maggioranza così ampia. La verità è che poi sui singoli provvedimenti Monti conterà su una maggioranza a geometria variabile, cercherà sostanzialmente maggioranza ogni volta e se nelle aule è tutto abbastanza al momento, abbastanza semplice, già nelle commissioni parlamentari cominciano a esserci un po' di problemi. Certo. E quindi insomma è un percorso non facile, questo non c'è dubbio, questo non c'è dubbio, è un percorso non facile. Altra cosa aggiungo, in un'unica modestissima proposta del programma Giannino che ho visto ieri adottata e che va in parallelo con il fatto che Attilio Beffer, il capo dell'agenzia delle entrate, dovrebbe diventare il quarto viceministro alle economie, e il fatto che Mario Monti per la prima volta ha detto che la lotta all'evasione fiscale, assolutamente sì, tutta la vita, sarà intensificata, abbasseremo ulteriormente la tracciabilità e via con la solita batteria delle cose che a me fanno un po' sorridere, ma comunque sono considerate stragiuste. Però dice non solo sposteremo la pressione fiscale del sistema, meno cuneo fiscale sul lavoro e impresa, riequilibrando con patrimoni e IVA, ma ha detto con i proventi la lotta all'evasione fiscale da intensificare ulteriormente, e già sta andando meglio di anno in anno, abbasseremo le aliquote. E io l'ho sempre detto, il giorno in cui a Tirio Befra facciamo retrocedere ai contribuenti che pagano una marea, una sberla, un'ira di Dio, una ladrata di tasse, gliele facciamo arretrare subito quelli che già pagano, quelle prese agli evasori, credo che Attilio Befera diventerà più popolare della Madonna di Pompei. E questo è l'augurio, se ho capito bene, Mario Monti l'ha detto testualmente, questa sarebbe una maniera per rendere veramente popolarissima la lotta all'evasione fiscale, perché a quel punto non è concepita a vantaggio dello Stato che si piglia tutto in più spesa corrente, ma viene immediatamente riconosciuta ai contribuenti, le aliquote vanno abbassate, l'ha ricordato ieri timidamente rispetto a quello che vorrei io, ma l'ha ricordato il professor Mario Monti. Infine, altro accenno, Corrado Clini, che è diventato ministro dell'ambiente, e tutti coloro che si sono occupati di questo, io sono l'ultimo della fila in questi anni, sanno che è una delle persone più stracompetenti dal punto di vista tecnico in tutta Italia sulla questione energetica, ha lavorato al protocollo di Kyoto, eccetera eccetera, non ha mai nascosto di non essere un estremista di chi dice che solo con le energie alternative, l'Italia ha bisogno di tutto, delle energie alternative, aveva bisogno anche del nucleare. Corrado Clini lo ha scritto e l'ha dichiarato per tanti anni, non ha cambiato idea anche lui di fronte a Fukushima. Ieri ha avuto il torto di ricordarlo, essendo una persona limpida, coerente e dritta, tutti lo hanno aggredito ovviamente, e questo testimonia ulteriormente la limpida i limpidi meriti di Corrado Clini. Per quello che mi riguarda, so che molti di voi a casa la pensano diversamente, ma io sono dell'idea che quando non vengono smentite fattuali, ma vengono date emotive, chi ragiona sui numeri deve continuare a mantenere salde le proprie convinzioni, nel pieno rispetto di quello che decidono naturalmente i ragionevolissimi e razionalissimi elettorati. Infine, ancora, mi ha molto colpito, e sono d'accordo per una volta integralmente con Massimo Mucchetti sul Corriere, che invita Mario Monti ad misurare con grande attenzione tutti i passi che il governo dovrà fare su decisioni che riguardano importanti vicende in cui Banca Intesa, la ex banca guidata da Corrado Passera, è parte integrante. Quindi tutte le decisioni che verranno prese su Alitalia e i suoi concorrenti, tutte le decisioni che verranno prese su Ferrovie dello Stato, NTV, la società concorrente, Montezemolo, Della Valle e altri soci italiani, ma di cui il socio, diciamo, garante della parte finanziaria è appunto Banca Intesa al 20%, e poi c'è SNSF, la società francese, dice Massimo Mucchetti, rendete le decisioni su tutti questi capitoli, visto che c'è Corrado Passera che si è dimesso, ha sciolto il conflitto di interesse nel governo, assolutamente trasparenti, non fateci pensare che possa esserci una diretta influenza per il fatto che Corrado Passera è stato amministratore delegato, poiché molto si è discusso su questi interventi di banca di sistema, non fateci pensare che questo governo è un sistema della Banca Intesa. Io saluto intanto il direttore del Tempo e Alessandro Barbera, adesso andiamo in pubblicità e poi torniamo con le vostre telefonate. Avevo dimenticato di segnalarvi un editoriale del Time questa mattina che mi ha molto colpito, perché nell'editoriale del Times c'è scritto che il governo Monti mostra che l'Italia ha dita come prospettiva per la crisi del dopo euro la via cinese, cioè la via cinese nel senso dell'autoritarismo, perché il Times in questo la pensa come Giuliano Ferrara, dice la democrazia è sospesa di fatto e di diritto anche in Italia dal governo tecnico, e se per il fallimento della politica precedente, cioè non è che Times difenda il governo Berlusconi, cioè se per il fallimento dei politici che non fanno le riforme e non sanno leggere il comportamento dei mercati si dovesse arrivare però alla paradossale conclusione di una via autoritaria come risposta all'euro, tenetevi il vostro euro e tenetevi la vostra linea cinese, perché noi nell'euro non ci siamo entrati, non abbiamo sbagliato e ci teniamo la democrazia e la Camera dei Comuni, che è una bella maniera per dire cose diverse, ma mi colpisce che il giudizio sia di questo tipo su Monti e sulla prospettiva cinese autoritaria che verrebbe fuori dall'Italia, un paese bloccato da veti, da sto parlamentarismo che vi piace tanto e così via, la prospettiva cinese. mi viene da sorridere, tranne il fatto che i britannici ovviamente non si pentiranno mai di essere entrati in questo euro ridotto, così con il Bundestag che esamina preventivamente gli aumenti delle tasse irlandesi, che gli irlandesi fanno bene, Braveheart, libertà, a dire no ai tedeschi, perché io credo che l'equilibrio si debba raggiungere al più basso livello di spesa pubblica compatibile con un welfare decente, non al più alto come si fa dovendo seguire l'esempio dei paesi leader, eppure più alto ma più basso rispetto al nostro di 4,5 punti, figuriamoci che cosa avrebbe detto Giannino. Per fortuna Giannino non diventerà mai, per la minoranza assoluta del suo pensiero, mai davvero troverà rispecchio in uno schieramento politico di governo italiano, c'è poco da fare. Allora sentiamo intanto come la pensate legittimamente voi. Ettore da Milano, prego. Buongiorno dottor Giannino. Intanto, visto considerata la sua ultima affermazione, la potremmo proporre come consulente tecnico, visto di un governo tecnico. Non c'è possibilità. Le sue idee potrebbero essere molto utili. Io la disturbavo per chiederle questo, una riflessione sul fatto che benedetta Europa l'abbiamo vissuta, l'abbiamo subita e l'abbiamo accettata per mille aspetti, le regole generali, l'ordinamento generale e così via. È sorprendente però che nel momento in cui venga fuori un problema come quello che sta venendo fuori dell'economia globale europea che non funziona, ogni governo pensi a risolversi il problema in casa propria, che significa non risolvere nulla, e non affronti il problema in modo europeista con un comitato tecnico, un Monti, un governo tecnico europeo, non certo nazionalista che va solo a violentare le democrazie locali. No, diciamo Ettore che questo ci dovrebbe essere la commissione, diciamo che la commissione Barroso in questi anni con la Germania leader tende a contare meno di niente, in altri tempi la commissione europea faceva non solo quello che diceva lei ma era un po' il motore, si vedeva che era il motore della costruzione europea, delle decisioni che poi venivano assunte, certo, nel Consiglio europeo. In questi anni non è più così. Oggi appunto più che mai sarebbe necessario, ma vedo che non succede. Va bene, risolveremo dei problemi forse noi, forse la Francia, forse la Germania. No, io su questo la penso come lei. Se non esiste un'unione monetaria costruita solo sull'idea che i politici devono essere virtuosi a casa loro, perché questa è la caratteristica del nostro modello di unione monetaria, senza fiscalizzazione da parte della monetarizzazione da parte della banca centrale dei debiti pubblici, e io ho difeso questo criterio perché io credo che quando le banche centrali devono monetizzare tutto i politici sanno che possono permettersi qualunque deficit e qualunque debito, ma poiché non abbiamo costruito nessun meccanismo di cooperazione automatica per sostenere i paesi che vanno in difficoltà senza chiederlo alla banca centrale, a quel punto credere che possa essere solo la virtù dei politici a livello nazionale tenere tutti in equilibrio è un'illusione, perché i politici sono fatti di carne, sono imperfetti, i politici sono più imperfetti della media del resto dei generi umani perché hanno maggiori tentazioni dopo che hanno vinto il consenso, e come si vede infatti tendono solo a mentire ma a negare la realtà. Cosa succede nelle crisi? Che il conto che si presenta a milioni di lavoratori, risparmiatori eccetera, perché questo è il meccanismo di questa unificazione monetaria voluta dai tedeschi, quando arriva la botta a quel punto degli elettorati, gli elettorati capiscono, aprono gli occhi, puniscono i politici, cambiano, li scelgono di virtuosi. Nel frattempo siamo alla botta, tenuto conto che poi i politici, dopo aver mentito e non aver saputo interpretare la realtà, non è che diventano virtuosi, cavalcano la demagogia di chi protesta contro questo meccanismo, e secondo me puntualmente avverrà anche stavolta. Quindi a cercare politici perfetti ed Eden in terra si finisce per compiacere gli errori dei politici peggiori e si realizza l'inferno. Edmondo dalla provincia di Napoli. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Se lei poco fa ha nominato la Madonna di Pompei. Sì. Io chiamo proprio da quelle parti. Guarda, io un saluto e un ringraziamento da parte mia. Non sono troppo devoto, ma la Madonna la rispetto profondamente. Se bisogna. Comunque complimenti anche davvero al dottor Monti, al professor Monti. Una constatazione. Si perderanno anche i prossimi 18-20 mesi per fare qualcosa. Il Sud, grande sconosciuto, non una parola. Ieri è mancato, sì. La mafia, la camorra, l'andrangheta, non una parola. Non si comprende che fare una lotta contro le mafie significa anche recuperare il Sud, la possibilità di investire al Sud, soldi, al Nord si vive, al Sud no. Io potrei avviare un'attività, ma non l'avvio qui al Sud, perché i soldi se li mangia tutta la mafia, la camorra. Allora, ieri su questo, secondo me lei fa bene a rilevare questo, c'è stato un passaggio sulla legalità e un altro passaggio quando dedicato alle forze dell'ordine, alla magistratura su questo. In effetti è vero che il dualismo Nord-Sud non è stato uno dei riferimenti di fondo e neanche uno dei riferimenti insomma che si avvertivano nel discorso. La tesa a questo punto è per il grande piano, perché sono 50 pagine del piano che ha pronto Corrado Passera, perché sappiamo tutti che è così, che è il motivo vero per cui ha chiesto e ottenuto l'accorpamento di sviluppo infrastrutture e trasporti, perché mi si dice che c'è una parte relativa proprio a mobilitazione di capitale privato e non pubblico, oltre invece all'appello a ramassare e a rimettere a fuoco tutti i fondi strutturali europei e i cofinanziamenti italiani per la parte di infrastrutture e grandi programmi, quello su cui stava lavorando il ministro Fitto, con modalità però operative nuove per ridurre tempi e modalità di impugnativa amministrativa, ed è concentrato, sarebbe concentrato per il sud una parte fondamentale di tutti questi interventi per appunto alzare la crescita potenziale con una prospettiva di medio e lungo periodo. Aspettiamocelo, auguriamocelo, perché in effetti questo capitolo un po' mancava. Abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale, poi torniamo con le vostre telefonate. Arte, l'ipnosi dalla quale bisogna tutti svegliarci, perché il salto dell'euro è una fine di civiltà. Può avvenire la fine delle civiltà perché ci si è illusi su costruzioni troppo virtuose, lontane dalle imperfezioni di uomini. Possono avvenire, l'essenziale è sedersi a un tavolo e trattare, perché leggetevi su un articolo del Messaggero posto tra poco su Chicago Blog cosa ho scritto sulle tre soluzioni che sono possibili per quanto vi possano apparire estreme, a patto che politici seri si mettano a un tavolo e ne capiscano e ne calcolino le conseguenze prima per affrontare questa crisi dell'euro, oppure per uscirne. Sì, io indico anche delle modalità per uscirne. Sentiamo come la pensate ancora su Mulmonti, un'ultima osservazione che riguarda il suo discorso programmatico. Alle regioni e all'autonomia è piaciuto molto il fatto che abbia tenuto l'interim delle regioni, proprio in ragione di ciò che le regioni gli avevano detto: guarda che con noi e con le autonomie la questione dei tagli non è affatto conclusa e siamo in guai serissimi. E lui ha detto: mi terrò il ministero, così a questo punto vi io stesso mi prenderò carico di questa cosa, forse ce n'era bisogno. Massimiliano da Milano, prego Massimiliano. Buongiorno, dottor Giannino, intanto un onore parlare con lei, perché... No, vada al punto. No, ok, il punto è solo una critica breve rispetto a quello che ho sentito prima, rispetto al discorso che ha fatto Monti. Vero, Monti ha fatto un discorso elencando le cose che non vanno bene, ce ne sono tante, lo sappiamo, però non mi si venga a dire che la novità deriva dal fatto che lo dice chi è oggi Presidente del Consiglio. No, certo, giusto. Monti lì per quello, l'aspetto che c'è una serie di cose che non vanno bene, si spera che lui riesca a risolverle, e quindi sostanzialmente ha fatto un discorso da un discorso che poteva fare Draghi, un discorso che poteva fare... È un discorso tecnico notarile, infatti a Giuliano, a mio amico Giuliano Ferrara, non piace per niente che non ci sia un'enfasi, non ci sia l'indicazione, ci doveva dire che tipo di cavallo lui sta guidando. No, un tecnico non ti dice quello lo fanno i politici perché hanno una costituzione elettorale da motivare, pompare, rigiustificare. Credo che quello che ci dice Massimiliano Damiano sia vero, credo che sia un intento voluto, volare basso, non essere velleitari, e anche non pestare i piedi ai partiti, perché sa che sennò altrimenti non riesce a fare quello che è lì chiamato a fare dal capo dello Stato. Armando da Bergamo, prego Armando. Buongiorno dottor Giannino, sono Armando e io sono un misero operaio che ha iniziato a 13 anni e mezzo a lavorare. Sì. E sento che lei continua a dire che queste pensioni di anzianità le vuole togliere, ma non pensa un po' anche a noi che abbiamo iniziato presto, dobbiamo lavorare più di 50 anni seguendo la sua linea? Guardi, io ho cominciato a 16 anni, non so se è chiara questa idea, ed è un cambio tono, perché sa Armando, siccome ho fatto di tutto, nel senso che quando poi me ne sono andato via di casa, ero giovane, non so l'età, non ho chiesto niente a nessuno, credo di sapere che cosa vuol dire. Non c'è niente di più alieno da me del figlio di papà coi soldi che fa la vita ovattata col sedere al caldo. È come se vi capisco. È come se capisco quando dite: abbiamo fatto un patto e già ce l'hanno allungata 3-4 volte e dobbiamo fare anche la quinta. Passo mezze giornate a rispondere a domande come la sua, certo che ci penso. Giuliano Cazzola, che è favorevole al contributivo pro rata, innalzamento fino a 63 anni del requisito anagrafico dal 1 gennaio per avere il trattamento di pensione di anzianità, propone che il requisito dei 40 anni minimi di versamento comunque possa non valere per chi ha fatto solo l'operaio. Va bene, io posso arrivare anche a questo, però bisogna, se mi permette, finirla di dire che tutti i lavori sono usuranti, come si tenta di fare passare, solo perché si ragiona con la testa che il contratto fatto con lo Stato anni fa deve rimanere uguale per chi maturava il pensionamento di anzianità. e i contratti lo Stato li cambia a seconda di quello che sono le condizioni. Questa è l'amara verità, e l'amara verità li cambia in meglio, come ha fatto nei confronti dei pensionati per decenni, e in peggio quando la finanza pubblica e questioni di giustizia elementare verso coloro che vengono colpiti dalla Dini rendono questo squilibrio eccessivo. Questa resta la mia opinione, pronto a esaminare poi quali tipi di lavori esentare, senza però dire che sono tutti e compresi gli insegnanti, come ho letto, perché mi fa molto ridere. Massimo da Genova, molto breve. Buongiorno, due punti. Uno l'ha già affrontato con il primo ascoltatore, quindi chiedo soltanto questo: potrà intervenire, io mi aspetto che intervenga, che oltre sul, che sul piano nazionale il governo Monti con le sue personalità cerchi di recuperare un ruolo in Europa per rimodellare, insomma, d'accordissimo, la linea. O ci sediamo lì oppure qua siamo vittime. Esatto. Poi la seconda era, lei accennava la Tobin Tax. Ora, evidentemente un paese, una federazione che accettasse di uscire dal mercato, modificarne le regole, dovrebbe entrare in un regime di autarchia. Ritorniamo indietro di 80 anni, insomma. Lo so, i tedeschi però si sono su questo, pensano che siccome il danno viene sulla piazza di Londra, loro riguarda meno. Massimo, la pensiamo uguale io e lei, però i tedeschi pagano la pensione allo stesso modo. Claudio dalla provincia di Verona, rapidissimo. Buongiorno, io vorrei solamente dire che non sono d'accordo con il signor Monti per via dell'ICI, perché torniamo sempre al solito sistema, oppure sarebbe giusto che prima facesse un censimento di tutte le case in modo che l'ICI venga pagata da tutti. Allora, poi glielo lascio dire. Lui, c'è una mezza promessa di verificare la cosa patrimoniale delle case, non so perché sarebbe molto lunga, comunque capisco, vediamo concretamente come farà, bisogna stare attenti. Secondo suo punto? Secondo mio punto è, quando Monti metterà davanti al Parlamento il fatto di diciamo di eliminare parlamentari oppure di diminuire rideremo. Il stipendio, secondo lei cosa voteranno? Ma non credo che i capponi votano per il Natale, come si suol dire, però bisognerà sperare che quello che ha detto lo fa. Allora noi dobbiamo chiudere ormai tassativamente, come sapete, se non mi levano la linea, quindi appuntamento domani alla linea regionale radio. Viva l'euro, da salvare o da salvare o da saltare, purché ne parliamo concretamente. Il peggio è non far finta di niente e, come al solito, come fa la politica, mentire, girarsi dall'altra parte e presentare a voi il conto. A domani.